Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Ma questi che stanno facendo? Si ribellano. La voce della gente che scende in piazza e il rap di chi canta contro l'andrangheta, le notizie dei giornalisti che scrivono nonostante le minacce e il coraggio degli imprenditori che iniziano a denunciare nonostante la palude di silenzi ancora tutta da scalfire. Per una settimana abbiamo raccontato i piccoli grandi gesti rivoluzionari contro l'andrangheta germogliati in Calabria. E se una rondine, come si dice, non necessariamente fa primavera, di sicuro questi sono gesti importanti. Parola del procuratore capo di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone. In questa intervista attraversa le ultime vicende, comprese le rivelazioni del pentito di Bell, ripercorre quest'anno terribile, dice, di minacce, ma mette uno dietro l'altro anche i risultati importanti raggiunti, 4 collaborazioni e una ventina di denunce degli imprenditori, calcola. Quando 2 anni fa riferì al prefetto del primo commerciante che indicava i suoi estorsori, racconta a Storiacce Pignatone, lui pensò ad uno scherzo. Questa invece oggi è la realtà della Calabria e questo è uno dei protagonisti della nuova stagione. La differenza mi sembra notevole. C'è una presa di coscienza ancora, naturalmente soltanto in alcuni settori della società, del fatto che l'andrangheta è probabilmente il primo problema e comunque un gravissimo problema della società calabrese che ne condiziona lo sviluppo economico, civile, democratico, e che quindi bisogna parlarne, discuterne, riflettere e studiare le soluzioni che non possono essere soltanto quelle dell'azione repressiva. Non dimentichiamo, se andiamo all'esperienza palermitana, che una delle prime manifestazioni di una società che anche allora, 20 anni fa, era estremamente bloccata fu quella dei lenzuoli, certo, di protesta contro le stragi mafiose. A me sembra che il fatto che ci siano alcune centinaia di persone che, restando alla città di Reggio, scendono in piazza con la loro faccia, questo può sembrare normale a Milano o a Torino, ma non lo era a Reggio Calabria, e protestano per quello che è avvenuto, e peraltro questo riescono a fare ormai da un anno. Tutto questo mi sembra molto importante e mi sembra anche che sia la prima e più grave sconfitta per chi ha organizzato durante tutto quest'anno terribile che è stato il 2010 queste gravissime intimidazioni, che non solo non hanno affatto intimidito, come era ovvio, i magistrati. Non dimentichiamoci che molti miei colleghi hanno ricevuto lettere anonime accompagnate da proiettili, giornalisti hanno avuto bruciato le macchine, non solo, ma la magistratura e anche la stampa ha continuato a fare il suo lavoro. Ma ripeto, al contrario, si è espressa questa ribellione, questa protesta, non è una cosa da poco. Ecco, procuratore, torneremo su alcuni di questi riferimenti che lei ha indicato e proprio anche su questo paragone con quello che fu la grande manifestazione dei lenzuoli in Sicilia. Lei prima diceva da alcune parti della società civile ci sono dei segnali, chi è che ancora non si fa sentire? Una situazione a macchia di leopardo, è chiaro che c'è una presenza significativa di insegnanti, e però abbiamo vissuto una vicenda estremamente grave, proprio un atteggiamento all'università con una serie di favoritismi, definiamoli così, nei confronti del figlio del boss Giuseppe Pelle. Certo, c'è stata la vostra inchiesta, esatto, che ha mostrato un'inchiesta come che ha dimostrato questo, diciamo, l'esistenza di questi favoritismi. E poi però è stato positivo, secondo me, che molti studenti e professori abbiano anche più su internet, dicendo non siamo tutti così, ci siamo quelli che studiamo e lavoriamo per il nostro futuro. E questo mi sembra emblematico di quello che avviene in molti ambienti. C'è qualche imprenditore che ha denunziato, ha reagito a queste denunce, io tengo a sottolineare che sono seguiti in tempi rapidissimi provvedimenti giudiziari, e c'è però una situazione di sofferenza di Confindustria a Reggio Calabria, tanto che l'associazione provinciale è stata commissariata di recente. Certo, certo, infatti proprio il neocommissario Callipo ha anche parlato però di un segnale di rivoluzione in un certo senso. Ma secondo lei questa distinzione è geografica? È trasversale addirittura all'interno dei singoli ambienti. Tenga conto per esempio sulla Locride, che notoriamente è una realtà difficilissima, però ci sono state proprio a Locri una serie di persone che nell'ambito di un procedimento per usura hanno denunziato fatti di usura da loro patiti, c'è il procedimento in corso, però è stato un segnale importante, mentre molte altre volte naturalmente noi registriamo una miriade di attentati, di danneggiamenti eccetera, a cui non corrisponde nessuna denuncia. C'è una realtà in evoluzione, in movimento, che è crescente la presa di consapevolezza dell'esistenza di un problema, e non deve sembrare una cosa da poco, nulla di nuovo, perché io che ho una lunga esperienza a Palermo mi ricordo negli anni 70, primi anni 80, si potrebbe dire oggi retrospettivamente, il primo problema era rendersi conto che c'era il problema in aria. Ecco, procuratore, in questo anno è possibile in qualche modo quantificare ad esempio il numero di denunce in aumento che ci può essere stato, sia da parte di imprenditori per usura, per racket di vario genere? Partendo da zero, è chiaro che anche 10, 12 o 15 è un numero importante, e questa è la realtà della provincia di Reggio Calabria. Proprio due anni fa di questi tempi, sotto le feste di Natale del 2008, c'è stata la prima denuncia di dopo anni evidentemente di un commerciante che denunziava di essere stato vittima di un tentativo di estorsione. Quando io l'ho comunicato al prefetto non ci credeva, pensava uno scherzo. Il commento è stato: a Reggio Calabria queste cose, cioè di un commerciante che denuncia in modo specifico un tentativo di estorsione, non succedono. Le denunze che ci sono state quest'anno sono un grosso passo avanti. Una ventina? Siamo in quest'ordine di idee. Lei ha ricordato la manifestazione dei Lenzuoli di Palermo, segnò un momento molto forte della società civile siciliana, ma quel momento poi fu seguito anche da una serie di collaborazioni da parte dei boss. Anche in Calabria avete avuto inizi di collaborazioni, alcuni boss di un calibro più o meno grande. Si è rotto qualcosa anche lì? Secondo me sì, questo è, in questo momento è un dato di fatto innegabile e inconfutabile, cioè noi abbiamo sentito ripetere per anni e anni il ritornello che in Calabria, in particolare a Reggio Calabria, la provincia di Reggio Calabria con alcune propaggini nella provincia di Vibo e in quella di Crotone, è il nucleo duro dell'Andrangheta, le realtà di Cosenza, di Catanzaro per modo di dire sono completamente diverse. E lì ci sono stati dei collaboratori di giustizia anche negli anni passati e continuano ad esserci. Nella provincia di Reggio Calabria questo fenomeno era ritenuto del tutto impossibile, perché si diceva la struttura familistica delle cosche impedisce a chiunque di pentirsi, perché la prima cosa dovrebbe accusare il proprio padre, la madre, i fratelli e così. Noi dobbiamo prendere atto che in pochi mesi, nel 2010, prima una collaborazione ad aprile, ora siamo già a 4, meno di 2 mesi dopo l'estate, ci sono dei collaboratori di giustizia. Siamo ancora all'inizio, la legge concede 180 giorni, siamo ben lontani da questo limite per fortuna, però finora le dichiarazioni che hanno reso sono state ritenute attendibili dai giudici che le hanno valutate. Fra queste ci sono quelle che hanno consentito di fare luce almeno in parte su quegli episodi, gli attentati alla Procura Generale, al Procuratore Generale, l'intimidazione nei miei confronti, perché c'è una persona che ha riconosciuto di essere stato lui l'organizzatore di questi fatti e ha indicato anche i suoi complici. Su questo sta indagando Catanzaro, la Procura di Catanzaro, che penso provvederà in tempi abbastanza brevi. Tutto questo 2 anni fa sarebbe stato impensabile. Quando ci fu quel caso del bazooka lasciato come segno intimidatorio nei suoi confronti, si disse anche: non è solo 'Ndrangheta. Le mafie sono tali perché ci sono delle connessioni con il resto della società civile. È chiaro quindi che questi fatti devono avere spiegazioni sia sul livello meramente criminale sia in un contesto più ampio. Poi il singolo episodio può avere tante spiegazioni specifiche, minute, a volte possono pure sembrare irrilevanti. Questo che lei dice mi fa venire in mente un altro caso di cui vi siete però occupati, che è quello di Zumbo. Quello è un caso classico di, non è solo 'Ndrangheta, abbiamo un commercialista che godeva anche della fiducia della magistratura che gli aveva affidato la custodia dei beni sequestrati, a cui personaggi che fanno parte evidentemente degli apparati della sicurezza o dell'arma dei carabinieri, perché erano questi ad avere di esclusiva le notizie sulle indagini che Zumbo si procura e che va a riferire a quel Pelle Giuseppe che abbiamo citato prima, cioè a uno dei grandi boss dell''Ndrangheta. Questo è un caso veramente inquietante di collusione fra organizzazione 'ndranghetista e apparati dello Stato. Le chiama in causa anche le difficoltà ulteriori per le vostre indagini, come lei ha ben visto anche in Sicilia, con tutti anche i processi che ci sono anche stati anche sulle talpe e sulle fughe di notizie. Evidentemente sono anche io che è sfortunato che li vada a trovare. Evidentemente ci sono anche dei metodi che si ripetono in modo abbastanza uguale in regioni diverse. Per chiudere questo capitolo, voi pensate che questi quattro possono aver aperto una strada anche per altre collaborazioni? Noi ce l'auguriamo. Ma avete segnali in questo senso? Se li avessimo non glieli direi, naturalmente. Noi prendiamo atto che in meno di 2 mesi ne sono maturate 4, continuiamo a lavorare perché se non c'è una chiara percezione della volontà dello Stato di lavorare seriamente sul piano della repressione, certamente le collaborazioni non esorgono, e dall'altro speriamo che ci sia sempre anche la consapevolezza dell'ambiente circostante, è importante. Io ho citato quello che dice l'unica donna che ha deciso di collaborare, la quale spiega di averlo fatto non tanto per paura di dover restare 2 o 3 anni in galera, ma per evitare che i figli dovessero ripercorrere la stessa vita che ha fatto lei, immersa in questo contesto familiare totalmente impregnato di 'Ndrangheta, nella speranza di dare una vita più libera ai figli. Questo mi pare molto importante. Certo, e forse può far sperare che possono esserci delle altre collaborazioni dalla parte femminile? Le donne in Calabria, nell'ambito delle cosche 'Ndrangheta, hanno una grande importanza, un grande ruolo, maggiore di quello in Sicilia. Quindi una consapevolezza del mondo femminile sarebbe sotto questo profilo molto importante. Storielle, storiacce. Se ogni giorno chi ha paura muore con il suo destino, io morirò una volta sola come Porcellino. Pietra dell'inciampo per cadere nella verità, musica per uscire dal torpore. Se in Calabria le zone dove i clan sparano per i ragazzini sono solo quartieri tranquilli dalle strade larghe, a Reggio Calabria anche un rap può bucare il silenzio di un incantesimo muto chiamato 'Ndrangheta. Non abbassare la tua testa, tu non farlo mai. Non devi dargliela per vinta, no, non farlo mai. Io non mi arrenderò, è l'inno del gruppo dei Calafro e può essere la bandiera dei tanti piccoli, grandi protagonisti di una nuova stagione che albeggia nella punta dello stivale e che vi abbiamo raccontato su Radio 24 per una settimana. Perché la svolta non passa solo attraverso la repressione, ma è importante che tutti i settori della società civile si pongano il problema. È stato l'incipit di questa chiacchierata con Giuseppe Pignatone, il procuratore capo di Reggio Calabria, che ha ricordato le 20 denunce di imprenditori di quest'anno, le 4 collaborazioni e anche le tante minacce subite dai magistrati, e da cui ripartiamo in questa intervista. Morirò una volta sola come Porcellino. A proposito delle minacce a voi magistrati, non molto tempo fa, dopo un arresto di un altro boss calabrese ma in Emilia, Acri, è venuto fuori che tra i possibili progetti che erano in corso, gli è stato trovato anche dell'esplosivo, c'era anche quello di un attentato nei confronti di un magistrato. Ma questo purtroppo è una routine, ci sono anche tanti che rimangono sepolti fra le carte processuali o fra le notizie che la polizia apprende, per le quali si prendono le opportune misure di sicurezza. Quindi era una minaccia concreta? Cioè, a me ha colpito anche perché di lì a poco lei è stato proprio in Emilia. No, non so il caso specifico, sono stato in Emilia, come può capitare di andare anche in altre regioni. Dico però che il periodo che viviamo indubbiamente è caratterizzato anche da questo. A proposito di repressione, anche a Reggio Calabria, come in molte altre parti d'Italia, c'è una protesta delle forze dell'ordine contro tagli di vario tipo. Io devo dire che per quanto riguarda la provincia di Reggio Calabria, da alcuni anni a questa parte c'è uno sforzo del governo, sono le varie forze politiche presenti in Parlamento, significativo, che ha consentito quindi di raggiungere anche dei risultati. È chiaro che poi c'è una crisi economica che travaglia il Paese, ci sono scelte di politica legislativa che tocca a noi criticare o condividere. Chiaro che il nostro auspicio è che ci siano sempre più risorse sia per la magistratura che per la polizia per consentire di lavorarci sempre meglio. Poi le condizioni del Paese sono quelle che sono e mi rendo conto che ci sono anche scelte difficili da fare. Per fare un po' un bilancio di quest'anno che vi ha visto protagonisti, diciamo, sotto tanti aspetti positivi e negativi, è stato l'anno delle grandi minacce a voi, ma è stato anche l'anno di una delle più grandi operazioni contro l'Ndrangheta, quella della scorsa estate, ed è stato anche l'anno dell'esercito e di tutto il dibattito che c'è stato sull'esercito in Calabria. Se lei dovesse tirare un po' una sintesi, si mettesse al mio posto. La sintesi lei l'ha fatta, già, ci sono state a Reggio grandi, chiamiamoli pure successi, per usare un termine giornalistico che certo non userei in altre sedi, dell'attività repressiva, con due dati strategici. Uno è quello che ha ricordato lei, l'operazione con Milano, che significa due cose fondamentali. La prima, la più importante, è l'affermazione che l'Ndrangheta è un'organizzazione unitaria, non un insieme molecolare di cosche, a volte alleate, a volte isolate ognuna per conto suo. Il secondo risultato strategico è la conferma, direi in modo plastico, visivo, con le immagini, le registrazioni della presenza dell'Ndrangheta soprattutto in Lombardia, nel caso di quell'indagine specifica, ma purtroppo anche in tante altre regioni d'Italia e fuori d'Italia. Questo è il primo dei dati processuali. Il secondo è quello di cui abbiamo già parlato, l'inizio di una serie di collaborazioni da parte di appartenenti alle cose. A fronte di questo, ma le cose vanno in qualche modo, si intrecciano una con l'altra, crescendo di minacce, e la presenza dell'esercito è stata la risposta, secondo me, corretta a questo crescendo. A proposito di Nord, di questo libro, di questo caso che sta facendo tanto parlare, a proposito della presenza dell'Ndrangheta al Nord, dei rapporti con la politica, di questo Di Bella che viene considerato un po' come il Buscetta per Cosa Nostra. Se lei... Prima di arrivare a Buscetta ce ne vuole. Mi consenta di dirle che Buscetta diventa totale dopo decine di processi, decine di riscontri e decine di condanne. Per ora abbiamo soltanto un libro. Quindi bisogna andarci cauti, ma su tutto il dibattito che c'è stato su Ndrangheta Nord, presenza e dialogo, interloquisce o non interloquisce con le varie forze politiche, il caso è divampato intorno alla Lega, cosa ne pensa di questa polemica che c'è stata? Io non intendo entrare nella polemica, peraltro in un settore che non è neanche di mia competenza. Io ribadisco quello che ho detto prima, l'Ndrangheta è presente nelle regioni del nord Italia da decenni, anche in Piemonte, per spostarci dalla Lombardia, è stato condannato per l'omicidio del procuratore Bruno Caccia, parliamo di fatti di 30 anni fa, un appartenente alle cosche calabresi, quindi non è una novità la presenza dell'Ndrangheta al nord. E quindi le indagini più recenti hanno invece dimostrato, al di là delle dichiarazioni di Bella che ripeto vanno tutte verificate, noi parliamo di indagini concrete con filmati, intercettazioni, come sono quelle dell'operazione e il crimine, hanno dimostrato, ribadito e confermato questa presenza, hanno dimostrato quanto è pervasiva, si parla di 500 affiliati in Lombardia che non sono un numero trascurabile, e hanno dimostrato peraltro la capacità degli organi dello Stato di combattere questi fenomeni. È importante, secondo me è opportuno che comunque il problema salti agli occhi, cioè capire che c'è un problema. Dopodiché le parti sane del paese devono poter, presa coscienza del problema, anche avere la forza e la volontà di risolverlo. Che personaggio è questo con cui è stato intercettato Ciancimino? Su questo argomento nessuna risposta. L'intervista al procuratore Pignatone la ritrovate sul sito radio24.it e da lì, dalla pagina di Storiacce, è possibile accedere anche al nostro audioblog, dove ritroverete anche tutte le altre puntate di questo viaggio nella primavera calabrese e anche molto di più. Lì troverete anche la mia mail rcalandra@radio24.it. Ciao, a sabato!